Ehi ragazzi, come sono sexy questa sera. Mi guardano tutti. Mi sono messa anche le calze nere, perché mi piace proprio quel ragazzo, il più bel DJ del mondo. E questa notte sarà mio. Lo farò morire. Questa notte sarà proprio mio. Mio. Hey, is this where the party's at? Oh man, look at this big line here, man. There must be 1,000 people out here. Yeah, well, I'm going to the front. Excuse me. Excuse me. Excuse me! Hey, come on, buddy. Come on, you're stepping all over my shoes here. Come on, stop it. Stop pushing. Hey ragazzi, è qui la festa? Quanta gente c'è stasera? Saranno un migliaia! Scusa, mi fai passare? Scusa! Scusa! Scusa! Dai, andiamo, mi fate passare, non spingere, dai! Voglio entrare! E non toccarmi il culo, dai! E non toccarmi il culo, dai! Via! E non toccarmi il culo, dai! E non toccarmi il culo, dai! Uffa! Io ti farò morire, sai! Io ti farò morire, sai! Io ti farò morire, sai! Io ti farò morire, sai? You want this party started right? You want this party started right? Come on! You want this party started right? You want this party started right? Now quickly!